100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. C'è di nuovo la Grecia sotto i riflettori. Ieri l'Eurogruppo ha accolto positivamente il pacchetto di misure economiche approvato dal Parlamento di Atene nella notte tra domenica e lunedì. Grazie a queste misure duramente contestate ad Atene con proteste, scontri di piazza, il governo conta di ottenere i 3,6 miliardi di risparmi necessari per poter avere una nuova tranche del programma di aiuti finanziari che valgono 86 miliardi di euro concesso dalla Commissione europea, dalla Banca Centrale Europea e dal Fondo Monetario. Sono misure molto importanti per Atene, sia sulle tasse, si riduce la soglia di esenzione, l'aliquota marginale aumenta dal 42 al 45%, sia sulle pensioni con ulteriori tagli. La notizia però è che i ministeri economici dell'area euro hanno messo le basi per un accordo con Atene che arriverà entro fine mese e che appunto consentirà lo sblocco di questa nuova tranche di aiuti. La situazione resta complicata soprattutto perché, come sostiene il Fondo Monetario, il debito greco è insostenibile e si dovrebbe fare qualcosa per alleggerire questo macigno. È altrettanto evidente che in questa fase il clima è diverso rispetto al 2015 e oggi l'uscita della Grecia dall'Unione Europea non sembra essere una possibilità. Anzi, oggi l'idea di una Grexit è impensabile anche perché nessuno può permettersi una crisi nel Mediterraneo orientale con le tensioni geopolitiche dell'area, oltre al fatto che Atene resta un attore fondamentale nella gestione dell'emergenza rifugiati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Probabilmente non sono state le patatine fritte nell'aglio che rappresentano l'ultima innovazione a spingere il mercato finanziario a correre sul titolo di McDonald's, ma certamente la catena di hamburgerie o almeno di fast food globale che ha conquistato il mondo con i suoi hamburger sicuramente è diventato un fenomeno di borsa. Più 30% il guadagno accumulato all'inizio dell'anno, addirittura più 280% il guadagno in 10 anni. Insomma, il cibo veloce, il fast food, l'hamburger sono stati contestati e condannati per i rischi per la salute, ma sembrano incontrare sempre più gradimento. Probabilmente è stata anche la svolta della catena di fast food a provocare questa impennata del titolo, una svolta non solo salutista ma soprattutto legata al territorio in cui insiste. Anche in Italia infatti è possibile sempre di più trovare dei menù su carattere locale o comunque di prodotti del Made in Italy, e lo stesso è stato fatto nel resto del mondo. Insomma, la crisi sicuramente ha morso un po' i consumi alimentari, ma non ha sicuramente morso il titolo di McDonald's, che continua ad andare a gonfie vele. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.